Codice della privacy in materia di trattamento dei dati personali. Per garantire che il trattamento dei dati personali ad opera delle banche dati, informatiche e non, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, la legge istituisce un apposito organismo pubblico con il compito di rendere concreta tale garanzia e per la protezione dei dati personali. Obbliga i titolari delle banche dati a notificare la loro esistenza al garante e ad osservare nel trattamento dei dati numerose prescrizioni dirette ad assicurare la correttezza del loro impiego. Attribuisce agli interessati, cioè alle persone a cui si riferiscono i dati, una serie di diritti verso i titolari delle banche dati e, in particolare, il diritto di essere preventivamente informati circa il trattamento di dati che li riguardano, il diritto, escluso solo in alcuni casi, di scegliere se dare o negare il proprio consenso al trattamento stesso, il diritto di verificare se il trattamento dei dati che li riguardano è svolto in modo corretto e, in caso contrario, di pretendere l'eliminazione delle scorrettezze. Stabilisce regole ancora più rigorose per la protezione di dati particolarmente delicati, cosiddetti dati sensibili, come quelli relativi alle opinioni e scelte politiche o religiose, alle condizioni di salute, alla vita sessuale. Prevede modalità particolari per il trattamento dei dati da parte di medici e giornalisti per evitare dannosi intralci all'esercizio di queste professioni.